Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo con, da un lato, il bollettino della Banca d'Italia, ma dall'altro anche le dichiarazioni rese poco fa dal commissario europeo agli affari economico-monetari Olli Rehn, che ha incontrato il ministro Saccomanni a Roma. Ha detto che ci potrebbe essere un probabile miglioramento delle stime sulla crescita dell'Unione Europea se l'Italia rispetterà gli obiettivi sulle privatizzazioni e la spending review, quindi la riduzione della spesa pubblica. È possibile attivare la clausola degli investimenti, quindi maggiore flessibilità sul deficit, perché la Francia e la Spagna hanno ottenuto una flessibilità più alta sul deficit, cioè che non deve essere al 3% del PIL, può essere un po' sopra. Noi no, perché abbiamo un alto debito. Però questa è un'apertura di Olli Rehn, il quale si dice fiducioso che l'Italia centrerà gli obiettivi di bilancio. Questo però pone il tema delle riforme che ancora l'Italia non ha fatto, a maggior ragione, come dicevamo ieri, rispetto anche a una Francia che, paese molto conservatore in cui è difficile fare le riforme, però Hollande, al di là dei suoi problemi personali, le ha annunciate, riguarderanno il costo del lavoro, il fisco più semplice, la burocrazia e altre iniziative per le imprese. Ancora, per quello che riguarda i temi, parleremo anche della Regione Sicilia, dovrebbe essere il nostro ospite il Presidente della Regione Sicilia, Crocetta, perché insomma, è tutta la settimana che raccontiamo di una regione che, nonostante un bilancio che vede 1 miliardo di perdite di debito, e nonostante un'assemblea siciliana che è la più costosa d'Italia, costa 150 milioni di euro, il doppio della Lombardia, che ha, faccio notare, più abitanti, ma al di là degli abitanti, insomma, c'è proprio un problema di costi dell'assemblea regionale siciliana. Di nuovo è stata coperta dalla cronaca di questi giorni, perché da un lato la Procura di Palermo ha notificato 13 avvisi di garanzia per peculato ai capigruppo della scorsa legislatura, ma dall'altro i capigruppo di questa legislatura, quindi di questa assemblea, si sono dati 1.160 euro di aumento mensile lordo sotto forma di indennità di funzione, aggirando quindi il blocco previsto dall'allora governo Monti. Insomma, mi sembra che sia il caso di capire, anche con Crocetta, che ha tutto il nostro appoggio, ci mancherebbe, però quanto difficile sia, se veramente è un uomo isolato, come lo descrive la stampa anglosassone, oppure quali tipo di resistenze, chiamiamole così, sta incontrando. Faccio e ripeto onore al Movimento 5 Stelle, che per quello che riguarda i 1.160 euro ai capigruppo è stato il primo a insorgere e a denunciare la cosa. La borsa, come sempre, più 0,30% Milano, più 0,20% Francoforte, più 0,10% Parigi e più 0,14 Londra. Tra i titoli che vanno particolarmente bene segnalo Saipem più 3,40, Fiat più 3,30, World Duty Free più 3,20, Finmeccanica più 2,30, Prismian più 1,80, Enel Green Power più 1,70, CNH più 1,5 come Enel, Telecom più 1,40 come Exor e Tenaris l'1,20 lo guadagna Ferragamo, l'1% Ansaldo e Mediobanca. ST Microelectronics meno 2,20, Unicredit meno 1,40, Atlantia meno 0,90 come Monte dei Paschi, lo 0,90 lo perde anche Mediolanum e il Banco Popolare. 349-238-6666 per i vostri sms. E quindi l'Europa da un lato, la Banca d'Italia dall'altro e il giudizio complessivo sulla capacità di riforma del governo, e poi la Regione Sicilia. Partiremo dall'Europa per andare in Italia e poi chiudere con la Sicilia. Le altre notizie in breve. Allora, Allora, per quello che riguarda le altre notizie dall'America, aumentano le famiglie milionarie, un altro segnale che l'America è quasi del tutto uscita dalla crisi del 2008, diciamo, dico quasi del tutto perché adesso dovrà iniziare a stampare meno moneta e quindi ridurre anche un po' l'inflazione e il deficit, però sono aumentati di 53.000 gli americani milionari. Lo studio della Phoenix Marketing International, ci sono 6 milioni e 150.000 famiglie in America milionarie, ovvero sia una famiglia su 20. Il Maryland si conferma per il terzo anno consecutivo lo stato con più famiglie ricche, il 7,7% del totale. Al secondo posto New Jersey, al terzo posto il Connecticut. Male invece il quarto trimestre per Morgan Stanley, banca d'affari americana, meno 70% gli utili per effetto di accantonamenti, cioè di soldi che vengono messi da parte per spese future, mettiamola così. In realtà qui c'è un contenzioso legato ai titoli garantiti sui mutui. Morgan Stanley ha accantonato 1.200 milioni di dollari e l'utile netto appunto è sceso a 181 milioni di dollari. Volano a record, veniamo all'Europa, le sofferenze bancarie in Spagna. Anche in Italia le sofferenze bancarie, va detto, lo ricordiamo sempre, sono a livelli altissimi. E per quello che riguarda invece la Spagna, sono volate al 13% del livello più alto da quando esiste la rilevazione, quindi è un record storico. Di voi mi chiedono perché non commenti le dichiarazioni di Zingales, lo stiamo anche cercando e le commenteremo, perché oggi l'economista Luigi Zingales ha tenuto un'audizione alla Commissione Finanze del Senato sul disegno di legge IMU Banca Italia e ha detto che le banche tedesche hanno maggior solvibilità di quelle italiane perché lo Stato ha trasferito loro un grosso ammontare di risorse, specialmente alle banche regionali, le Landesbank, piene di titoli tossici americani. E quindi la Germania, questa è l'accusa di Zingales, io sono assolutamente d'accordo, in casa sua fa l'esatto opposto di quello che chiede agli altri di fare, perché aiuta diciamo, come paese le sue banche, mentre ha contrastato questo con gli altri paesi, ha contrastato gli aiuti ad altri paesi europei. E Zingales ha anche detto che va contrastata una situazione di due pesi e due misure con un'unione bancaria che sia uguale per tutti. E quindi invece in questo momento il vantaggio più grosso, ripeto, è per le banche tedesche, che poi si trasmette in un vantaggio competitivo a livello europeo. L'Unione Europea è principalmente franco-tedesca, impone le sue regole al resto del continente con conseguenze devastanti e il rischio di penalizzare e meridionalizzare e desertificare l'intera Italia. Su questo io sono assolutamente d'accordo e ripeto, il fatto che io ritenga è un atteggiamento intellettualmente criminale parlare di un'uscita dell'Italia dall'euro, non significa che, a meno che non vogliamo portare il cervello all'ammasso, criticare questo tipo di gestione dell'Europa, dell'area euro, che è una cosa diversa dalla moneta unica, che è il termometro. La febbre ha altre cause, non la causa il termometro, la causa per esempio un'Europa a trazione tedesca con la Francia che si accoda e che di fatto poi va a avvantaggiare le sue banche e le sue imprese, okay? È questo che sta creando anche il malcontento, il mal di pancia nei confronti dell'Europa da parte degli elettori. Vedremo come andrà poi a maggio. Su questo la Germania ha delle grossissime responsabilità, ne parleremo fra un attimo con Daniel Gross, che invece da sempre difende anche, insomma, l'impostazione tedesca. La Banca d'Italia, adesso vi arriviamo, il bollettino, il PIL italiano quest'anno crescerà dello 0,7%, nel 2015 dell'1%, la disoccupazione crescerà ancora, sfiorerà il 13% quest'anno e nel 2015 continuerà leggermente a crescere la disoccupazione, perché la crescita del PIL non è sufficiente a riassorbire i disoccupati e soprattutto, come sottolinea la Banca d'Italia, solo se ripartirà la domanda interna, i consumi, potrà ripartire l'occupazione. Insomma, non possiamo sperare di andare avanti solo ed esclusivamente con l'export. Il credito va ancora male, il credito alle imprese, sottolinea la Banca d'Italia, meno 8% i prestiti alle imprese nell'ultimo trimestre a disposizione, quello terminato a novembre, e dice la Banca d'Italia, questo rappresenta un freno alla ripresa. Ripeto, capiamo anche in questo caso tutte le ragioni delle banche, non è un programma bianco o nero, Guelfi o Ghibellini, so che questo paese si innamora sempre delle fazioni contrapposte. Le banche hanno ragione nel dire che molti imprenditori non chiedono i soldi o li chiedono solo per pagare i fornitori o per pagare gli stipendi, ma non basta, perché i dati che abbiamo a disposizione dimostrano che c'è anche una tendenza delle banche a investire in strumenti più sicuri, titoli di Stato o altro, più sicuri anche grazie a quelle regole del cavolo di Basilea 3, e invece investire meno per le piccole e medie imprese. Ok? Allora, si possono tenere assieme le due cose, così come si può non uscire dall'euro ma criticare questa gestione dell'Europa. La Banca d'Italia fa anche notare che la ripresa non arriva alle piccole e medie imprese e alle imprese meridionali perché sono meno orientate all'export e sono più legate alla domanda interna. Questo è il grosso problema di chi non ha una vocazione all'export. Non è che tutti possono esportare nello stesso modo, eh? Adesso io chiedo all'ascoltatore, è venerdì, piove, c'è brutto tempo, ma l'ascoltatore che mi dà del cretino perché io continuo a difendere la Germania, ma che programma ha ascoltato in questi due anni? Ho ricevuto anche le lamentele del consolato tedesco perché attaccavamo troppo la Germania, ma lei si rende conto cosa sta dicendo? Può dire tutto, ma che io difenda la Germania, non lo so, avrà un problema di frequenze la radio, perché è tutto l'opposto, solo perché non attacco l'euro? Complimenti. La Banca d'Italia fa anche notare che sono ripresi gli acquisti di titoli di Stato dall'estero, che è una buona notizia. Infatti sono acquisti netti per 1,5 miliardi da inizio anno, sono 33,4 miliardi, vuol dire che gli investitori sono tornati a comprare debito italiano. Ancora per quello che riguarda notizie in breve. La crisi sta cambiando l'età degli acquirenti di automobili, sostanzialmente la fascia tra i 18 e i 29 anni è stata dimezzata, ci sono la metà degli acquirenti, le donne sono stabili al 40%, gli unici che comprano auto nuove sono quelli che hanno più di 45 anni, probabilmente anche grazie in alcuni casi, in molti casi, a una posizione più stabile lavorativamente parlando. Allora, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che sbroglia la vicenda degli scatti di stipendio del personale della scuola, qui era stata chiesta la restituzione in blocca paga, quindi sbloccata la vicenda degli scatti. Invece è interessante oggi un'analisi con dati Eurostat della Corte dei Conti che contribuisce un po' a sfatare alcuni luoghi comuni sui dipendenti pubblici in Italia. Attenzione, quando parliamo di spending review e di riduzione della spesa pubblica non è sul numero di dipendenti, ma è la spesa pubblica vale circa 810 miliardi, ce n'è una parte che si chiama spese per beni intermedi, quindi gli approvvigionamenti, la fotocopiatrice, l'automobile, la carta, la trasferta. Gli approvvigionamenti, lì sono 150 miliardi, quella è la cosa da ridurre, perché ci sono, se non ricordo male, in questo paese 30.000 agenzie appaltanti, per cui c'è agenzie, soggetti che possono indire una gara d'appalto. È chiaro che se non le organizzi un minimo, poi questo permette anche atteggiamenti clientelari, corruzione, vantaggi per un fornitore piuttosto che un altro, e spreco comunque, perché ordinare una fotocopiatrice, ordinarne 100 è una cosa un po' diversa quando vai a trattare, lo capisce anche un bambino, a meno che tu non abbia interesse a ordinare una fotocopiatrice perché ti permette i tuoi canali privilegiati. Lo dico perché non è tanto licenziando i dipendenti pubblici, ma è riducendo la spesa per i beni intermedi. Immaginiamo se venisse ridotta di un 20%, sarebbero 30 miliardi di euro risparmiati in un colpo solo, che tu vai a fare una vera spending review, anche perché il numero di statali in Italia è di 5,8 statali ogni 100 abitanti, in Grecia del 3,5, in Francia è quasi il doppio, sono quasi 10 statali, in Spagna 6,5, in Gran Bretagna sono più di noi gli statali rispetto agli abitanti, sono 9 in Gran Bretagna ogni 100 abitanti, in Germania sono come noi 5,4, in Olanda 6,5. La spesa, lo stipendio dei dipendenti statali è relativamente basso in Italia, siamo a 2.717 euro contro i 4.000 euro in Francia, i 2.500 in Germania, i 3.200 in Gran Bretagna e in Olanda i 3.500. Allora, due cose: occorre ridurre la spesa pubblica, non i dipendenti in senso stretto, e pagare meno i dirigenti della pubblica amministrazione, perché lì abbiamo stipendi invece alti, non i dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno stipendi tra i più bassi in Europa. Poi su questi dati bisognerebbe però calcolare quanto costa tutti i dipendenti delle regioni, perché ha ragione che poi questi sono dipendenti statali, e poi dove li mettiamo i 24.000 forestali siciliani, per esempio? (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora, come facciamo a non, mamma mia quante sono ancora, a raccontare altri sprechi? Poi passiamo con Daniel Gross, e quindi la posizione tedesca, la dichiarazione di Olli Rehn, i casi italiani, la Banca d'Italia, le tensioni sulla maggioranza più o meno riformista, più o meno che più, e chiudiamo con la Sicilia. Allora, vabbè, al di là della vicenda di cui si sono occupati i giornali, del calcio balilla, di quel titolare di un bar multato per 1.400 euro perché non mette le slot machine ma il calcio balilla, adesso è emblematica di una burocrazia, di uno Stato che sta girando a vuoto. Ma come si fa a multare uno perché mette il calcio balilla, quando da sempre diciamo che bisogna ridurre la dipendenza da gioco per le slot machine? Non lo so, boh. Ha perso pure la causa, La multa andrà al comune di Venezia. Orsoni, il sindaco può anche intervenire su questo, no? Allora, dopo mesi di attesa invece è arrivata la lista di nomi degli ex consiglieri della Regione Lazio cui spetta il vitalizio per l'ultima legislatura, tenuti segreti perché bisogna tutelare la privacy. È nelle mani della consigliera Valentina Corrado del Movimento 5 Stelle. La lista contiene i nomi dei consiglieri che hanno diritto al vitalizio dopo un solo mandato. La giunta Polverini è durata 3 anni ed è finita in maniera indegna, travolta dallo scandalo di Batman Fiorito, e del resto, per cui con la Polverini che aveva oggettivamente grosse responsabilità. Pensate che loro avranno il vitalizio, nonostante in carica per soli 3 anni, già dai 50 anni di età. Altro che esodati qui. Solo a dicembre la Regione Lazio ha staccato 266 assegni per una spesa di 1.635.000 euro. In totale nel 2013 la Regione Lazio ha speso solo di vitalizi agli ex consiglieri, che voglio dire, non per come si sono comportati in quella giunta lì, molti di questi non solo non dovrebbero avere vitalizi, ma dovrebbero anche ridare dei soldi o quantomeno nascondersi in alcuni casi. No, c'è pure il vitalizio, ha speso l'anno scorso 19.630.000 euro, un terzo dell'intero bilancio per i vitalizi per gli ex consiglieri di una giunta che è crollata sotto gli scandali dopo 3 anni. Ma e poi pensate che la colpa sia l'euro? Allora, tra i nomi presenti spiccano quelli di Isabella Rauti, figlia dell'ex segretario Missino Pino Rauti e consorte dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. E poi al verde di Paolo Cento, 2.500 euro, anche all'ex vicepresidente della regione Luciano Ciocchetti sono arrivati 3.600 euro di vitalizio. Pensate che la moglie dell'ex sindaco Isabella Rauti è stata nominata a giugno del 2013 da Angelino Alfano consigliere per le politiche di contrasto alla violenza di genere. Però lei a dicembre ha incassato 2.600 euro, tutto regolare dal punto di vista legislativo. Mi chiedo se non si debba cambiare la legge. Poi ci sono i consiglieri che hanno il doppio vitalizio, perché sono sia ex parlamentari che ex consiglieri regionali. Domenico Gramazio, tra il vitalizio regionale e da parlamentare si porta a casa 10.877 euro netti al mese. Gramazia, qualcosa da dire? È tutto giusto perché avete fatto i consiglieri e il Parlamento, tutto giusto. L'ex governatore del Lazio, ora in carcere dopo lo scandalo Cerroni, Bruno Landi, si becca 7.300 euro netti di vitalizio, perché somma i due vitalizi. L'ex sindaco di Viterbo, Rodolfo Gigli, incassa 8.000 euro di vitalizio netti. L'ex capogruppo del PD in regione e senatore dal 2001, il mitico Esterino Montino, che è attualmente sindaco di Fiumicino, di solo vitalizio prende 8.565 euro. Tutto regolare in una regione che ha un buco, un debito di 24 miliardi di euro praticamente nell'intera manovra finanziaria dell'Italia, con 12 miliardi di debito finanziario e 12 miliardi di disavanzo costituito da debiti verso i fornitori, soprattutto nella sanità, quindi parte dei soldi che le imprese attendono dagli enti pubblici. E dice, c'è un ascoltatore che dice, beh, è un tam tam da carro funebre, cosa facciamo, non ne parliamo più? Eh no, bisogna parlarne, anche perché nel frattempo i cittadini di Roma e del Lazio devono fare i conti con i crescenti disservizi e un sistema sanitario regionale in grave difficoltà. Ce ne siamo occupati anche nei nostri GR. Continuano a ridursi i servizi di dialisi offerti nei vari ospedali, salta il turno di notte a San Camillo a Tor Vergata, riduzione di turni al Santo Spirito, servizi in bilico al Fatebene Fratelli, al San Giovanni eliminati i posti letto nel reparto di nefrologia, dimezzati i posti per la dialisi, eliminata la guardia nefrologica. Le direzioni degli ospedali hanno chiesto una deroga alla regione, ma niente da fare, i soldi non ci sono. Però voglio dire, non ci sono i soldi, ma un terzo dell'intero bilancio va a pagare i vitalizi. Miseria, guarda. Così molti pazienti non hanno altra scelta che rivolgersi alle cliniche e ai centri di dialisi. Negli ultimi 3 anni il Lazio ha perso oltre 3.000 addetti ai servizi medico-sanitari, però, ripeto, continua a tranquillamente a pagare i vitalizi. Voi dite che non c'entra, ma insomma, 19 milioni pagati nel 2013, avessero fatto un bel gesto questi consiglieri di un non indimenticabile consiglio regionale, avessero rinunciato al vitalizio, no? Anche al doppio vitalizio, e dirottato 19 milioni sulle strutture ospedaliere di Roma, magari qualche turno per la dialisi e per la nefrologia si, no? Saltava fuori, che dite? O non è economia questa? Vabbò, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, c'è il metodo, la pubblicità, poi partiamo con Daniel Gross e la difesa della Germania, immagino, mentre oggi l'ha molto attaccata Luigi Zingales, e poi appunto la Banca d'Italia e la Regione Sicilia. A 7:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver raccontato, e poi ne parleremo, di altri sprechi, in questo caso non sono nemmeno sprechi, è cattivo utilizzo delle risorse, perché tu paghi una cifra come quella per i vitalizi degli ex consiglieri della Regione Lazio, che vista la crisi potrebbero anche sospendere, tanto hanno un lavoro, immagino, no? La politica non è un lavoro, lo si fa per vocazione. Prendi uno stipendio quando sei consigliere, poi perché devi prendere un vitalizio anche se hai fatto solo 3 anni di legislatura dai 50 anni in poi, tutti i mesi di quell'importo? E questi 19 milioni potevano dirottarli sulla sanità della Regione Lazio, invece che sentire cose appunto della guardia nefrologica che viene eliminata al San Giovanni, o i turni di notte al San Camillo non offerti più, i servizi di dialisi a Singhiozzo, no? È difficile, lo dico anche intellettualmente, passare da questo alla critica alla Germania, però io cerco di tenere assieme i due temi, perché si può criticare la pubblica amministrazione, gli enti locali, lo spreco di risorse in questo paese da un lato, e criticare anche quella che è un'Europa che, grazie a mio avviso alla guida tedesca, otterrà forse un record di dissenso alle prossime elezioni europee, nel senso che molti europei del sud, non me ne frega niente, sempre europei sono, lo capissero anche i tedeschi, voteranno partiti anti-Europa, che purtroppo diventano anche partiti anti-euro, il quale non c'entra nulla. Allora, con questa bella premessa, quindi, che bisogna fare i compiti a casa, ma si può chiedere anche un'altra Europa, saluto Daniel Gross, direttore del Centro per gli Studi Politici Europei di Bruxelles. Buonasera, direttore. Buonasera, Bruxelles. Allora, oggi, poco fa, l'economista Luigi Zingales, che è intervenuto alla Commissione Finanze del Senato italiano, ha detto le banche tedesche hanno maggiore solvibilità, sono più in salute di quelle italiane, perché lo Stato ha trasferito loro un grosso ammontare di risorse, specialmente alle Landesbank, che sono le banche regionali, che erano in grossa difficoltà perché erano piene di prodotti tossici americani. Cioè, la Germania ha fatto in casa quello che ha contrastato invece a livello europeo per gli altri paesi europei. È una. Due, dice, bisogna smetterla con due pesi e due misure. L'unione bancaria deve essere uguale per tutti. La legge no bailout dei tedeschi, di fronte alle difficoltà proprie, cambia in un mondo in cui le banche hanno implicitamente un supporto pubblico. Gli stati ricchi hanno banche solide, quelli poveri no. Gli stati ricchi se lo possono permettere. Questo atteggiamento, secondo Zingales, dà un vantaggio competitivo alle banche degli stati ricchi, legge Germania, e si trasmette in un vantaggio competitivo a livello europeo, con la conseguenza che un'Europa principalmente franco-tedesca, che impone le sue regole al resto del continente, rischia non tanto di cambiare queste regole, ma se non vengono cambiate queste regole, si rischia una meridionalizzazione dell'Italia e desertificazione dell'intera Italia. È d'accordo, Gross? Sostanzialmente sì, quello che è stato la Germania con le Landesbank è uno scandalo. Oh, bravo. È uno scandalo di cui si parla troppo poco anche in Germania, perché lì i politici siano dentro le Landesbank. Ma io direi che le Landesbank sono il primo ritardato, perché lì è intervenuta la Commissione europea, ha imposto una cura molto forte e due sono addirittura state chiuse. Rimane il problema che lo Stato stesso, che è pertinenza molto negativa per me, sempre con l'aiuto delle sue banche, e questo le regole europee dovrebbero proibirlo. Allora, quindi lei è d'accordo sul fatto che la Germania ha avuto un trattamento particolare per quello che riguarda le banche, sarebbero come le nostre casse di risparmio, un po', adesso non... Mentre per esempio la Spagna ha dovuto chiedere aiuti, poi non li ha ricevuti, poi li ha ricevuti dopo a livello europeo, ma insomma il governo tedesco ha aiutato le sue banche regionali, che erano messe molto molto male per via di questi prodotti tossici. Seconda domanda, Daniel Gross, secondo lei la mia previsione politica, cioè che tutto questo partito anti-euro, che io non condivido e critico tutti i giorni, perché l'euro non è la colpa, ma che di fatto è un partito anti-Europa, anti questa Europa, rischia di ingrossarsi se non arrivano a brevissimo termine dei segnali forti da Bruxelles? C'è il rischio, ma gli ultimi sondaggi dicono che questo rischio è abbastanza contenuto. È vero, esiste in Italia, magari anche in Grecia, ma si deve anche pensare al popolo che vota nel nord, e lì si tratta anche di arginare di partiti euroscettici come l'Alternative für Deutschland, che sarebbero senz'altro più forti se la Germania facesse ancora di più per gli altri paesi. Per cui bisogna trovare come il punto giusto, l'equilibrio che sia accettabile, se non dalla stragrande maggioranza, se non a tutti, ma dalla stragrande maggioranza dell'elettorato. E questo succede, secondo me, sia al nord che al sud. Allora, su questo però, vediamo se riesco a far passare questa immagine. L'Europa, l'area euro, in questo momento è come una famiglia in cui alcuni figli, perché hanno studiato, hanno fatto i compiti a casa, hanno un lavoro e guadagnano bene, e altri figli, mi riferisco all'Italia, siccome non hanno fatto i compiti a casa in questi 20 anni, hanno pensato di rinviare le riforme, hanno perso, lo dico tranquillamente, un ventennio politicamente parlando, per cui tutti i nodi sono ancora irrisolti: pubblica amministrazione, evasione fiscale, meritocrazia, lobby, caste, ordini professionali, tutto ancora lì, guadagnano meno, hanno difficoltà a trovare un lavoro. Però siccome una famiglia è una famiglia, è chiaro che a un certo momento il fratello più ricco, chiedendo al fratello, diciamo, meno bravo, al figlio il prodigo, di fare i compiti, di mettersi a studiare, di quindi tornare ad avere una capacità poi di proporsi e di lavorare, però intanto non arriva con la Mercedes mentre l'altro è in bicicletta, magari consuma anche lui e fa guadagnare qualcosa anche al fratello più povero. Si può chiedere questo alla Germania ragionevolmente o no? Cioè di aumentare i consumi interni in modo da redistribuire quello che è meritatamente il grosso dato sull'export e quindi su come sta marciando l'economia tedesca? Ma naturalmente si può chiedere, e lo fa tutto il mondo, e penso che abbia ragione, perché i tedeschi consumano troppo poco, poi non sanno che fare con i loro risparmi, e danno dell'Landesbank che poi li sprecano, per cui non conviene questo approccio certamente neanche alla Germania. Ma io non sarei così certo che poi il nord andrà sempre meglio del sud. Se ci mettiamo 10 anni fa, all'epoca la Germania era l'anello debole dell'Europa, i paesi come Spagna apparivano, e Irlanda apparivano molto più dinamici. Adesso la Germania pare più forte, tra 5 anni potrebbe non esserlo più. Ma lei è rimasto sorpreso, per inciso, che insomma la Germania l'anno scorso è cresciuta solo dello 0,4%, è una crescita italiana quasi. Cioè non è un appunto, e per quello dico, la Germania magari sta seduto su un sacco di soldi, e questo la rende apparentemente almeno invulnerabile quando c'è una crisi, sì. Perché una crisi conta solamente chi ha i soldi in cassa, no? In contante. Ma l'economia tedesca non è molto dinamica, l'economia tedesca cresce poco anche quando ha delle condizioni, come dire, molto favorevoli come adesso, con tassi di interesse altissimi. Per cui io non sono così certo che la Germania sarà ancora l'economia più forte fra 5-10 anni. Noi ci auguriamo che tutta l'economia europea dell'area euro sia più forte, quindi anche la Germania, ma anche l'Italia e gli altri paesi. No, importante quanto lei ricordava sull'aiuto dato dal governo tedesco alle casse di risparmio territoriali, perché è vero, se ne è parlato poco ed è una cosa obiettivamente vergognosa nel momento in cui tu sei poi con gli altri partner così rigorosa e non si può salvare le banche e hai messo qualunque bastone tra le ruote all'Unione Bancaria Europea perché non volevi poi dover caricare sui contribuenti dell'area euro il fallimento di una banca di un paese. In realtà però poi quando c'è stato aiutare le tue banche l'hai fatto. Le chiedo un minuto di pazienza perché ho le informazioni sul traffico, poi vorrei arrivare all'ultimo aspetto che riguarda l'Italia. Cioè oggi il commissario europeo agli affari economico monetari ha detto: se l'Italia rispetta gli obiettivi sulle privatizzazioni e la spending review, e quindi la riduzione della spesa pubblica, potremo darle maggiore flessibilità. Però faccio notare che Adriana Ceretelli ieri sul Sole 24 Ore diceva: insomma, perfino la Francia, il paese più immobile dell'area euro, ci sta superando con riforme annunciate da François Hollande, e qua rischiamo di restare gli ultimi della classifica. La Spagna le riforme le ha fatte, il Portogallo pure, mo anche la Francia le annuncia, e noi stiamo ancora giustamente a ragionare di legge elettorale, ma le riforme vere, costo del lavoro, fisco e quant'altro, spendere più, dobbiamo ancora vederle. La risposta dopo il traffico. Dato che siamo nell'euro, è possibile uscirne a dei costi limitati? La mia visione è no. Ovvero, l'unica possibilità relativamente non traumatica di uscita sarebbe un'uscita del nord Europa dall'alto, ovvero la Germania e l'area tedesca che abbandona l'euro creando un euro diverso, più forte, che si rivaluta rispetto all'euro esistente. Non so se questa sia poi la strategia giusta, soprattutto non so se il sud euro sopravviva come moneta comune e non si disgreghi, però almeno la transizione sarebbe relativamente più facile. Però in ogni caso la transizione sarebbe molto costosa e dobbiamo domandarci quali sarebbero i benefici. In un paese come l'Inghilterra, che ha una tradizione di moneta indipendente, la flessibilità del cambio ha aiutato mostruosamente durante la crisi. Se l'Inghilterra non avesse potuto svalutare il 30-40% rispetto all'euro, oggi sarebbe in una situazione molto peggiore di quella che è. Però il vantaggio dell'Inghilterra è che si è permesso, ha svalutato solo quando ne aveva bisogno e non come politica strutturale continua, come ha fatto l'Italia negli anni 70-80. Come politica strutturale continua è pericolosa e, come questo grafico fa vedere, induce alla specializzazione sbagliata. Quindi, secondo me, sarebbe la soluzione sbagliata. Avere la flessibilità di usare il cambio solo in alcuni momenti è un grande vantaggio. È un grande vantaggio che noi abbiamo dato via, ma abbiamo dato via, secondo me, a ragione, perché l'abbiamo usato male e non avevamo la credibilità di usarlo solo bene. Oggi saremmo un paese a rischio di continue svalutazioni e quindi, secondo me, la soluzione non è in questo momento uscire dall'euro, tanto più un'uscita unilaterale che sarebbe devastante. Così Luigi Zingales, un pezzo del suo intervento di oggi alla Commissione Finanze del Senato, lo riassume in tre punti. A. L'unica soluzione con meno traumatica, perché il trauma ci sarebbe comunque, sarebbe se la Germania uscisse dall'euro e i paesi, diciamo così, a lei vicini, Nord Europa. B. Attenzione a pensare, perché il grande approccio, no, dei teorici dell'anti-euro, i vari Bagnai, Barnard, tutti con la B, però io, Barisoni, non la penso così, è che in questo modo potremmo svalutare. Zingales dice una cosa secondo me importantissima: per svalutare quando serve bisogna essere un paese serio come la Gran Bretagna, che lo ha fatto per un periodo molto breve quando era in ginocchio per le banche nel 2008-2009. Noi non siamo un paese serio. L'abbiamo usata negli anni 70-80 la svalutazione per non fare le riforme, perché eravamo la Cina del mondo e ce lo potevamo permettere, ma adesso dare la possibilità all'Italia di svalutare, visto che non siamo un paese serio, significa non svalutare un anno, due anni come ha fatto l'Inghilterra e poi ridar forza alla moneta, significa cercare di risolvere i problemi nostri: scarsa produttività, scarsa concorrenza nel mercato interno, burocrazia opprimente, tasse opprimenti, evasione fiscale, con la svalutazione, e cioè collocandosi poi di nuovo nella scia del mercato cinese e indiano, perdendo comunque la partita, perché tu puoi svalutare quanto vuoi, ma loro costano comunque di meno. Oh, non siamo inglesi, facciamoci una ragione, noi abbiamo bisogno della maestra che ci bacchetta, così. E anche in quel caso copiamo. Daniel Gross è d'accordo con Zingales che la svalutazione, il miraggio della lira che poi si svaluta, sarebbe il modo per coprire, per mettere una mano di bianco su tutti i nostri problemi? Sì, e poi anche dal punto di vista della finanza pubblica. Vabbè, finanza pubblica lasciamo stare, veramente, cosa succederebbe? No, perché qualche teorico dice basta non pagare il debito, ma di che cosa state parlando? Non ci presta più un euro o una lira nessuno il giorno dopo. Vabbè, mi dica una cosa, però Zingales è stato molto chiaro, infatti questo qua ce lo teniamo e lo riproponiamo ogni volta. Mi dica solo una cosa, Olli Rehn che apre oggi alla maggiore flessibilità sugli investimenti italiani, quindi sul deficit al 3% se facciamo le riforme e le privatizzazioni, l'Italia rischia di essere fanalino di coda, visto che la Francia ha annunciato anche lei le riforme? Penso che questo rischio veramente esiste, e poi non bisogna dimenticare che i mercati finanziari sono come i lupi che attaccano sempre la pecora che non segue il gregge, che si isola, e se l'Italia dovesse veramente rimanere l'unica economia che non fa le riforme, l'Italia rischia magari anche dal punto di vista del premio rischio. Dello famoso spread. Già adesso la Spagna ha fatto il passo e questa differenza rischia di accentuarsi, per cui penso nell'interesse di tutti gli italiani, del sistema politico italiano, di fare questa riforma adesso che lo spread si è un po' calmato, l'economia sta ripartendo e non vedo veramente ostacolo ad un'azione molto determinata. Beh, l'ostacolo delle riforme in questo paese viene sempre da interessi, no? Interessi di lobby, interessi di chi ci campa benissimo con questo tipo di evasione fiscale, con questo tipo di burocrazia perché giustifica il suo posto di lavoro, con questo tipo di pubblica amministrazione perché giustifica voto clientelare, cioè gli interessi ci sono, non è che siano i marziani, il problema è che sono interessi di parte, invece la politica, alta politica, dovrebbe pensare agli interessi collettivi e mandare anche a quel paese gli interessi di parte a costo di beccarsi qualche sciopero, qualche protesta, qualche blocco di autostrada, non si può far contenti tutti, con questa logica siamo arrivati dove siamo, per non scontentare nessuno il paese è immobile. Grazie Daniel Gross, direttore del Centro per gli Studi di Politica Europea a Bruxelles, e adesso facciamo la borsa, una campanella, me la date? Sì. Allora, vedo molti messaggi, non posso commentare tutti. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, rapidi ma non invisibili, buonasera. Buonasera. Mezzo punto percentuale Milano, faccio tempo a leggere i titoli e poi li commenti tu dopo il GR. Fiat più 3,5 come Saipem, World Duty Free più 3,20, Finmeccanica più 2,80, Prismian più 2,30, Enel Green Power più 2,1, Telecom più 1,80, Ferragamo più 1,5 come CNH ed Exor ed Enel. Fronte opposto, Steam Microelectronics meno 2,30, Unicredit meno 0,90 come Jux, lo 0,70 europeo del Banco Popolare e lo 0,70 anche il caro di Atlantia e Mediolanum. Il GR e poi Borsa, Guido Gentili e il Presidente della Regione Sicilia Crocetta. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, l'approfondimento di borsa con Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Citavo già io le variazioni percentuali, giornata senza enormi strappi di borsa, diciamo, ma con alcuni titoli in evidenza, a partire da Fiat. Fiat e Finmeccanica. Fiat più 3,55, Finmeccanica più 2,80%. Guido Maurino. Sì, allora, per quello che riguarda Fiat è l'onda lunga che arriva da ieri dopo il dato sulle immatricolazioni europee che ha segnato, come dire, un dicembre finalmente positivo per il settore auto europeo, di cui ha beneficiato, anche se in misura minore del mercato, anche Fiat. Per quello che riguarda Fiat poi c'è tutta la partita ancora aperta rispetto a Chrysler per capire quale sarà la sede, per cui c'è una certa attesa anche per il CDA di fine gennaio, che dovrà mettere un po' i paletti di tutta l'operazione che porta al lingotto al 100% di Chrysler, e su questo insieme di notizie oggi il titolo ha fatto più 3,55%. Per quello che riguarda Finmeccanica invece, oggi la società ha riaperto un bond a 7 anni, aveva come obiettivo di riaprirlo per almeno altri 150 milioni, dovrebbe essere andato meglio del previsto, nel senso che ne ha raccolti 250 milioni, oltretutto con dei rendimenti in diminuzione rispetto al bond originario, per cui si abbassa il costo dell'indebitamento, una notizia positiva per la società. Ancora World Duty Free più 3,20% da un lato, dall'altro invece Steam Microelectronics meno 2,30. Sì, per quello che riguarda World Duty Free sono ricominciate le voci su una potenziale partnership per la società. D'altra parte la famiglia Benetton ha più volte indicato che cerca un partner per World Duty Free, che gestisce un po' i punti ristoro negli aeroporti, nelle stazioni, e oggi c'era un'intervista su un settimanale dell'amministratore delegato che tornava sul tema e si è riaccesa un po' l'attenzione. Per quello che riguarda Setri Microelectronics, che ha ceduto il 2,3%, la società ha risentito di alcuni report, ma soprattutto dei conti deludenti di Intel, che fa microprocessori un po' lo stesso settore di ST sono stati conti sì in crescita quelli dell'americana Intel, ma meno delle attese degli analisti, e questo si è riverberato anche su ST Microelectronics. Ancora per quello che riguarda i titoli Unicredit -0,90, Yux -0,70, Banco Popolare pure e Atlantia pure, migliori e peggiori in assoluto. Meridi +14%, SNAI +12%, Cell Therapeutics +12%, RCS, il gruppo Rizzoli Corriere della Sera +6,60. Fronte opposto invece, peggior titolo è Zucchi -14,70, però Guido ha guadagnato in una settimana da quando è entrato Buffon il 150%, no? Sì, ha guadagnato moltissimo, più che ha raddoppiato le quotazioni, per cui in qualche modo era fisiologico che non potesse durare questa, su queste quotazioni. Grazie Guido Marino, ecco, e buon fine settimana ai colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore. Grazie. Allora, è la regione più costosa d'Italia, 149 milioni di euro, con la Lombardia che spende invece la metà, 68 milioni di euro di bilancio, in termini relativi sono 5 volte in meno, il Piemonte spende 62 milioni, il Veneto 52 milioni, l'Emilia 32 milioni. È una regione in cui l'Assemblea, il Parlamento della regione siciliana, spende 87 milioni di euro in stipendi e pensioni per i dipendenti, solo i 240 dipendenti in servizio costano 37 milioni di euro, gli eletti e gli ex consiglieri costano altri 40 milioni, poi se ne spendono 3 milioni per collaborazioni esterne, 1.350 mila euro per le spese di comunicazione, 800 mila euro per la caffetteria dei dipendenti dei parlamentari. Tra auto blu, pulizie e call center ci sono altri 3.200.000 euro che ogni anno spende la Regione Sicilia. Ha un buco nel bilancio di 1 miliardo di euro, 20.000 dipendenti, altri 20.000 i precari degli enti locali, 28.000 i forestali, sono 4.000 in Canada, in Lombardia sono 500, in Piemonte 400, in Liguria 400. A Solarino, in provincia di Siracusa, 9.000 abitanti, 440 forestali, ma faccio anche notare che Avola ha 700 dipendenti, il comune per 30.000 abitanti, Lecco ha 50.000 abitanti e 500 dipendenti. E poi lo scorso anno la Regione Sicilia ha rimborsato 20 milioni di euro ai 15.000 addetti dell'azienda forestale regionale solo per le spese di trasferta. Si è arrabbiata anche l'Unione Europea perché la Regione Sicilia si è rivolta a Bruxelles per farsi finanziare una parte di questi rimborsi, ha detto se la regione non taglia le spese per i rimborsi chilometrici noi non siamo più disposti a finanziare. E l'ultima finanziaria regionale che abbiamo raccontato con il nostro Nino Amadore ha visto vari elementi anche di frizione, ma soprattutto quello che è successo negli ultimi giorni è che il 15 di gennaio la Procura di Palermo notifica 13 avvisi di garanzia per peculato ai capigruppo della scorsa legislatura nell'ambito di un'inchiesta che vede complessivamente indagate 97 persone, tra cui 83 tra deputati e ex deputati, acquisti di borse, cravatte di lusso, viaggi e cene galanti, automobili di valore, un giro da 13 milioni di euro l'anno, metà dei quali spesi secondo i magistrati in maniera illecita, e tra loro c'è anche il deputato nazionale del PD Davide Farone. Però, e ricorderete Livio Marocco, ex capogruppo di Futuro Libertà, 14 mila euro di nota spese, di rimborsi, tra cui pranzi, regali, pasta fresca, profumi, occhiali, spese per lavanderia e anche 180 euro per la collezione dei fumetti di Diabolik e il rimborso per la revisione del motorino. Ricorderete gli altri, ne parliamo da settimane, ex capogruppo dell'UDC Giulia Adamo ha inserito anche 450 euro spesi da Louis Vuitton, 1.300 euro spesi da Hermès, 1.700 euro per il regalo di nozze al figlio di Nino Strano. E poi il nostro premio Nobel, lo candidiamo pubblicamente, premio Nobel, il capogruppo del PDL, Innocenzo Leontini, che è riuscito a mettere a rimborso le tasse che doveva pagare a Equitalia Sicilia, che si chiama Serit, ha messo a rimborso 67.000 euro di tasse, se le vuole far rimborsare da noi, capito? E poi è insorto il Movimento 5 Stelle perché nel frattempo, nonostante questo, i capigruppo della Regione Sicilia si sono dati un aumento di 1.160 euro al mese sotto forma di indennità di funzione. E questo perché lo riceve già il Presidente dell'Assemblea, che riceve come indennità di funzione 2.700 euro al mese. Allora, ringrazio alla luce di questi dati la disponibilità che ci ha dato il Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. Buonasera. Buonasera, io spero di non rientrare in questa pagella, visto che... No, non è una pagella, sono... Visto che taglio tutto. No, lei tagli tutto, noi ce lo auguriamo, devo dire la verità. No, che... non ce lo auguriamo, lo facciamo. Bene. Guardi, lei ha già, Crocetta... Nostro... Comincio dai dati. Sì, no, vada. Mi ricordo completamente a memoria, quindi... Vada. Allora, l'anno scorso noi abbiamo, in un anno abbiamo tagliato 2 miliardi e 400 milioni di euro di spesa, per essere chiari. Il nostro bilancio l'anno scorso aveva un disavanzo di 1 miliardo e 200 milioni, non di 1 miliardo, e quest'anno invece il disavanzo tende a zero. Quindi tu, ci ammetterà che dopo aver tagliato 2 miliardi e 400 milioni di euro e prevedendo un ulteriore taglio di 350 milioni di euro per quest'anno, andiamo a un disavanzo zero, un po' bravini siamo stati, no? In condizioni difficili, mantenendo anche una serie di interventi a favore delle imprese, a favore dello Stato sociale, quindi abbiamo tagliato sprechi puri. Andiamo avanti, abbiamo tagliato 58 macchine, ma fra auto blu e servizi, e le auto sono sharing, ormai le auto di servizio, car sharing, cioè vengono condivise fra negli assessorati, fra i dirigenti, quindi non più la macchina. Nella finanziaria di quest'anno abbiamo, cosa che non ha fatto manco lo Stato italiano e nessun'altra regione italiana, abbiamo tagliato 23 partecipate, ne avevamo 33, diventano solo 10. E con tutti i problemi che nascono relativamente a queste partecipate, la verifica del personale, la verifica delle assunzioni, gli eventuali processi di mobilità e tutto che ne consegue in termini di risparmio, di affitti, di consigli di amministrazione, di spese legali, eccetera, eccetera, che derivano, che normalmente nascono da queste cose. Per quanto riguarda i forestali, prima dell'Unione Europea, della Commissione Europea, mi sono scandalizzato io, tant'è che nella finanziaria che noi abbiamo proposto e adesso approvato, le misure di taglio dell'indennità di distanza erano contenute già nella finanziaria prima che arrivassero le lettere di Bruxelles, quindi siamo noi che abbiamo denunciato il fenomeno. Siamo contenti che la nota di Bruxelles ci ha dato una mano per poterlo fare, resta il fatto che quest'anno noi tagliamo quei famosi 20 milioni di euro, li abbiamo tagliati, abbiamo avuto la protesta dei forestali, io non ho ceduto. Allora, Crocetta, per quanto riguarda tutta una serie di precariato, eccetera, eccetera, mettiamo fine, eccetera. I forestali, che sono il tema nazionale di attacco sempre alla regione siciliana. Beh, insomma, veda lei, 4.000 in Canada, 40.000 in Sicilia. Lei, no. Però io le dico che prima di ogni cosa bisogna rendersi conto che questi proprio 24.000 non sono, perché sono tutti part-time per 8.000 persone complessiva, che sono tanti, però non sono 24.000, perché fa una bella differenza fra 24.000 e 8.000, cioè coprono le giornate di lavoro di 8.000 persone. Quest'anno, in questa finanziaria, io ho bloccato il rimpiazzo del turnover, per cui non potranno più crescere, e quindi mettiamo fine a un fenomeno. Riduciamo il costo e soprattutto introduciamo un concetto, che è quello della mobilità di questa categoria, cioè molti di questi lavoratori andranno a transitare nei lavori che fanno a altri settori, altri dipartimenti della regione, altre partecipate, per esempio un gruppo, visto che sono qua sull'autostrada mentre lascio questa intervista, mi viene subito, sono stati assunti a tempo determinato dal Consorzio Autostrade Siciliana per fare un lavoro che prima veniva dato in appalto all'esterno e che costava 4 milioni di euro. quindi cominciamo a allora fare. Io ho le informazioni sul traffico, presidente Crocetta, che magari le interessano visto che è in autostrada. Poi vorrei chiedere alcune cose. Io non ho nessun motivo per dubitare, anzi i numeri poi ci sono. Tra l'altro noto con piacere che lei ha speso in un anno 51.000 euro tra spese di rappresentanza e fondi riservati, mentre i suoi predecessori, quindi Lombardo e Cuffaro, spendevano dai 2 ai 4 milioni di euro. Qualche domanda però per lei ce l'ho, anche perché sulle auto blu, anche lì prendo nota, ma ho visto che due sere fa, l'assemblea, o tre sere fa, l'Assemblea regionale siciliana ha inserito un bando per l'affitto di 7 nuove auto blu, 1.300.000 euro per 4 anni, di cui sei automobili per la presidenza e una per la sede di Bruxelles. E tra l'altro avete anche indicato come perché la legge prevede che siano sotto i 1600 di cilindrata, invece avete chiesto 2200, potenza minima a 170 cavalli e il cambio automatico. Mi dà la risposta tra un minuto dopo il traffico. Allora, presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, adesso mi risponde anche sulle auto blu. Mi dica tranquillamente, guardi. Le volevo dare un'unica risposta. Noi avevamo 18 auto, diciamo proprio per la spending review, passate da 18 a 7. Cioè, praticamente queste auto non erano intanto in acquisto, per cui stiamo eliminando macchine, erano in affitto e riduciamo. Quella che è un'operazione di spending review, vedo che la stampa riesce a trasformarla invece in operazione di spreco. Mi dica solo una cosa, però la cilindrata, ma perché serve un'auto? Ma non volete chiudere la sede a Bruxelles? Perché serve un'auto da 2200 cc? Se lei mi fa parlare, glielo prego. Subito. Se lei cosa, perché sa, certe volte uno quando parla poi deve sapere le cose, no? Ci mancherebbe. Allora, noi abbiamo tre persone scortate, oltre a me, che sono l'assessore all'ambiente, ex magistrato che è a rischio di morte per la mafia, e abbiamo anche il commissario dell'IRSAP, che è il commissario Cicero, che insieme a me viene considerato una delle persone in assoluto più a rischio di morte. Io sono fra le persone che in Italia, fra le personalità più a rischio d'Italia, vengo considerato con misure di tutela che rientrano fra le 20 personalità dello Stato, per intenderci misure da Presidente del Consiglio, per intenderci. Quando andavo a Bruxelles io da deputato avevo tre macchine dello Stato belga e nessuno si scandalizzava, visto che erano dedicate alla sicurezza di un uomo che può essere ammazzato da un momento all'altro. Chiaramente adesso che non sono più deputato ma sono anche presidente della regione, le autorità belga mi fanno osservare che non è che io avrò sempre questa tutela a disposizione, visto che la regione siciliana può pagare 518 euro al mese, perché tanto questa costa quella macchina per permettere i trasferimenti del presidente in quella circostanza. Perché le faccio presente che l'ultima volta che io sono andato a Lussemburgo, la polizia belga mi ha lasciato alla frontiera di Lussemburgo, perché dovevo andare, avevo un incontro con la Banca Europea degli Investimenti, e mi ha dato il professore Pezzini del Comitato Economico e Sociale con la sua 600, ha due 600, uno ha fatto salire me e uno due poliziotti, perché le scorte non si possono fare, due poliziotti italiani, non si possono fare coi tassì. Allora, una macchina che avevamo da anni tenuta in garage, che serviva non dovrei manco rivelare queste questioni, viene tenuta lì. Poi allora, secondo la stampa italiana, ma Crocetta, l'abbiamo... io sono uno sciufone, perché rischio la vita per difendere questa regione dalla lotta alla mafia. Allora veramente siamo in un paese Crocetta, dove si è perso la bussola. No, questo non l'abbiamo mai detto e l'abbiamo riconosciuto. Allora, anche quando gli attacchi sono domande, Crocetta, non sono attacchi. Io ho fatto notare anche due giorni fa che lei ha speso per esempio di rappresentanza molto meno. Mi dica ancora due cose rapidissimamente, perché ho 4 minuti, mi interessava la sua spiegazione e i suoi dati. Vede che l'ho fatta parlare praticamente senza interromperla. Lei si sente un uomo solo contro la corruzione e a rischio di sopravvivenza, come scrive il New York Times 2-3 mesi fa? Guardi, io non, non mi piace, cioè, il New York Times lì è giornalista, è rimasto 15 giorni con me, ha rivelato... Ma si sente solo o no? Ha rivelato più sensazioni che dichiarazioni. Non amo dichiarare la mia solitudine. Un momento fa sono stato con dei lavoratori dello stabilimento Fiat e la gente mi vuole bene, la gente mi invita ad andare avanti. Però lei capisce che io mi trovo una regione che ha fatto tanti dissesti e che oggi sto cercando di mettere in piedi, e vorrei che si parlasse anche delle cose che sto facendo, che sono grandi e che stanno cambiando l'immagine. Guardi, gli stipendi ormai dei parlamentari siciliani, grazie anche al lavoro che ha fatto il Parlamento, sono esattamente come tutti le altre. Ok, due cose al volo. Il mio stipendio che veniva paragonato a quello di Obama attualmente è più basso di ogni deputato, compresi i capigruppo, perché io ho rinunciato ai portaborse, al rimborso per il portaborse. Presidente Crocetta, ha ragione. L'abbiamo detto. 36.000 euro l'anno. E se lei si sottrae, dati alla mano, lo può andare a vedere per internet, su internet. Io guadagno meno di un deputato, guadagnando né più né meno che 6.500 euro netta al mese, considerato che 1.500 li do anche al mio Presidente partito. Crocetta, ho un minuto scarso, le chiedo rapidissimamente la prima cosa. Poi l'ultima cosa, me lo deve fare dire. Eh sì, però in 10 secondi, Crocetta, se no io le lascio il microfono aperto. In 15 secondi. La regione siciliana, autonomia speciale, quindi i beni culturali che sono nelle altre regioni, personale dello Stato, qui sono regionali. Allora, ho capito, Crocetta, mi faccia fare queste due domande. Prima domanda, mi dica sì o no. Faraone del PD deve dimettersi o no? Sì o no? Guardi. No, guardi, io non sì penso o no che ci si debba dimettere in presenza di un semplice avviso di garanzia. Ok, però se il PD sostiene che la cancellieri senza neppure un avviso di garanzia si deve dimettere per una telefonata, anche se le cose che vengono per Faraone sono delle fesserie, sono degli scontrini per delle manifestazioni. Però se si deve dimettere la cancellieri, si deve dimettere anche Faraone, che è nella segreteria di Renzi, per capirci. Bene, seconda e ultima domanda. Lei è a favore dell'abolizione delle regioni a statuto speciale, sì o no? Ma manco per idea, guardi, il fatto che sia stata una delle regioni che hanno scialacquato, guardi che se Sparta piange, Atene non ride, non è che quali partecipate ha abolito questo Stato italiano, oppure la corruzione, i 240 miliardi di euro l'anno della corruzione in Italia, mica li farà la regione siciliana. Cominciamo ad affrontare le questioni. Quindi no all'abolizione della regione siciliana, ho capito benissimo. Io devo lasciare la linea a Giuseppe Cruciani, il palinsesto di Radio 24 è questo, la riavremo a ospite, l'ho fatta parlare il più possibile, per spiegare giustamente quello che sta facendo. Sappiamo benissimo che i problemi si sono accumulati nel corso degli anni anche di giunte precedenti, quindi benissimo il lavoro, continui a farlo. Volevo anche sapere com'era possibile aumentare, che i capigruppo si aumentino l'indennità, ma non ho più tempo. Ringrazio Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, auguro a tutti voi un buon fine settimana. Focus Economia torna dalle 17 in poi di lunedì. Radio 24, la passione si sente.